Vedete che io voglio divertirmi. Divertirti? È vero! Divertirti! Io so crudel come tutti le verti. Ma, signor cavaliere, è vero quel che la dici? La povera infelice è di me innamorata e per pietà deggio fingere amore. Io son per mia disgrazia uom di